Terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Assunto il comando dell'esercito, Kutuzov manda a chiamare il principe Andrei, il quale arriva a Zarevo Zaimisce proprio il giorno in cui Kutuzov sta passando in rivista le sue truppe. E in questa occasione Andrei fa conoscenza con il tenente colonnello Denisov, che era l'antico pretendente di Natascia. Da quando il principe Andrei non aveva più visto Kutuzov, questi gli appare ingrassato e invecchiato. Alla notizia della morte del padre, Kutuzov lo abbraccia affettuosamente. Intanto sopraggiunge Denisov, che propone a Kutuzov un piano per sfondare le linee di operazione dei francesi tra Smolensk e Vyazma, in modo da poter rompere le comunicazioni di Napoleone. Ma Kutuzov si mostra stanco e sfiduciato, o meglio, rassegnato alla fatalità degli avvenimenti. A Mosca, intanto, dopo la partenza dell'imperatore, la vita riprende a scorrere in modo usuale, malgrado il pericolo che ormai minaccia veramente da vicino la città. Tuttavia cominciano a circolare voci di gente che sta lasciando le proprie case. A due giorni di distanza si susseguono la battaglia di Shevardino e quella di Borodino, che affrettano per i russi la catastrofe di Mosca e per i francesi, lo vedremo, la catastrofe generale di tutto l'esercito. Il principe Andrei, in quella chiara serata d'agosto del 25, se ne stava sdraiato, appoggiandosi a un braccio in una rimessa sconquassata del villaggio di Kniazkovo, sul limite dello schieramento del suo reggimento. Per quanto angusta, inutile a tutti e penosa apparisse ora al principe Andrei la sua vita, pure, come già 7 anni prima ad Austerlitz, alla vigilia della battaglia, egli si sentiva agitato e commosso. Aveva dato e ricevuto gli ordini per la battaglia dell'indomani. Non aveva più nulla da fare. Ma i pensieri più semplici, più chiari e perciò appunto più tremendi non lo lasciavano in pace. Egli sapeva che la battaglia dell'indomani sarebbe stata la più terribile fra tutte quelle alle quali aveva preso parte, e la possibilità della morte gli si presentò per la prima volta in vita sua, semplice e spaventevole, con vivacità e quasi con sicurezza, non in relazione agli interessi dell'esistenza e all'effetto che la sua morte poteva avere sugli altri, ma solo in relazione a lui stesso, all'anima sua. E dall'altezza di questa visione tutto ciò che prima lo occupava e lo tormentava ad un tratto si illuminò di una luce fredda, bianca, senza prospettiva, senza diversità di contorno. Tutta la vita gli si presentò come una lanterna magica nella quale aveva guardato a lungo attraverso una lente e alla luce artificiale. Ora vedeva a un tratto senza il vetro, alla luce chiara del giorno, quei quadri malamente dipinti. Sì, sì, eccole, quelle immagini menzognere che mi hanno commosso, entusiasmato e tormentato. Eccole, quelle figure rozzamente dipinte che mi sembravano qualcosa di bellissimo e di misterioso. La gloria, il bene pubblico, l'amore per una donna, la patria stessa. Come questi quadri mi parevano grandiosi, come mi sembravano pieni di un profondo significato. E tutto ciò invece è così semplice, pallido e grossolano alla fredda, bianca luce di questa mattina che io sento levarsi per me. 3 principali dolori della sua vita fermavano più semplicemente la sua attenzione. Il suo amore per una donna, la morte di suo padre e l'invasione francese che occupava metà della Russia. L'amore. Quella fanciulla mi pareva piena di forza misteriosa. Ebbene, l'ho amata. Ho fatto dei poetici progetti di amore e di comune felicità. Oh, caro ragazzo, esclamò ad alta voce con rabbia. Come no? Credevo a un amore ideale che doveva conservarmi la sua fede per un anno intero, durante la mia assenza. Come la tenera colomba della favola doveva struggersi separata da me. Ma tutto ciò è molto più semplice. Tutto ciò è tremendamente semplice. È disgustoso. Anche mio padre edificava all'Isia Gori e pensava che quello fosse il luogo suo, la sua terra, la sua aria, che i contadini fossero suoi. Ma è venuto Napoleone e senza sapere della sua esistenza lo ha spazzato via come una pagliuzza dalla propria strada e sono crollati il suo Isia Gori e tutta la sua vita. E la principessina Maria dice che è una prova mandataci dall'assù. Ma a che scopo la prova? Se lui più non esiste e non esisterà più, non esisterà mai più. Non esiste più. E allora, a che questa prova? la patria, la rovina di Mosca, e domani uccideranno me. E non sarà neanche un francese, ma uno dei nostri, come ieri un soldato scaricò il fucile vicino al mio orecchio. E verranno i francesi, mi prenderanno per la testa e per i piedi e mi butteranno in una fossa perché non puzzi loro sotto il naso. E si formeranno nuove condizioni di vita che diventeranno altrettanto abituali per gli altri. E io non ne saprò nulla e non esisterò più. Guardò la fila di betulle che luccicavano al sole, con il loro immobile fogliame giallo e verde e con la loro scorza bianca. Morire. Che mi uccidano. Domani. Che io non esista più. Che tutto questo esista e io non ci sia più. Si rappresentò al vivo la sua assenza da questa vita. E quelle betulle con le loro ombre e le loro luci, e quelle nuvole a pecorelle, e quel fumo dei bivacchi, tutto intorno si trasformò ai suoi occhi, e parve qualcosa di terribile e di minaccioso. Gli corse un gelo per la schiena. Alzatosi in fretta, uscì dalla rimessa e si mise a passeggiare. Dietro la rimessa si sentirono delle voci. Il principe Andrei, gettando un'occhiata, si vide venire incontro Pierre, che aveva inciampato contro un palo che era in terra e per poco non era caduto. Al principe Andrei era sgradevole vedere persone del suo ambiente, e specialmente Pierre, che gli ricordava tutti i penosi momenti da lui attraversati nel suo ultimo soggiorno a Mosca. «Ah, guarda un po'», disse. «Come mai? Non ti aspettavo, certo». E mentre diceva questo, nei suoi occhi e in tutta l'espressione del viso c'era più che freddezza, c'era inimicizia, e Pierre se ne accorse subito. Si era avvicinato alla rimessa nello stato d'animo più animato, ma, vedendo l'espressione del principe Andrei, si sentì intimidito e imbarazzato. «Sono venuto così, sapete? Sono venuto, mi pare interessante», disse Pierre, che in quel giorno aveva già ripetuto tante volte la parola «interessante». «Volevo vedere la battaglia». «Già, già. E i fratelli massoni che cosa dicono della guerra? Come scongiurarla?» disse ironicamente il principe Andrei. «Che si fa a Mosca? Che fanno i miei? Sono arrivati finalmente a Mosca?» domandò poi sul serio. «Sì, sono arrivati. Julie Drubetskaya me l'ha detto. Sono andato da loro, ma non li ho trovati. Erano partiti per la villa sotto Mosca». Il principe Andrei, tornato nella rimessa, si gettò su di un tappeto, ma non poteva dormire. Chiuse gli occhi. Le immagini si susseguivano le une alle altre. Su di una si fermò a lungo, con piacere. Si ricordò con vivezza una sera di Pietroburgo. Natascia, con un viso animato, eccitato, gli raccontava come l'estate prima, andando a cercare dei funghi, s'era smarrita in un gran bosco. Gli descriveva senza nesso la profondità della foresta e i suoi sentimenti e i suoi discorsi con un apicoltore che aveva incontrato, e interrompendo ogni momento il suo racconto diceva: «No, no, non posso, non posso, non racconto bene, no, non capite». Quantunque il principe Andrei la rassicurasse dicendo che capiva tutto ciò che ella voleva dire, Natascia non era soddisfatta delle proprie parole. Sentiva che non poteva rendere quel sentimento di appassionata poesia che aveva provato quel giorno e che voleva tirare fuori. Era così delizioso quel vecchio, ed era così buio nella foresta, ed erano così buoni i suoi... «No, non so raccontare», diceva arrossendo e agitandosi. Il principe Andrei sorrideva ora con quel gioioso sorriso col quale sorrideva allora, guardandola negli occhi. «La capivo», pensò il principe Andrei, «non soltanto la capivo, ma quella forza, quella sincerità, quella schiettezza spirituale, quell'anima sua che pareva immedesimata col corpo, quell'anima sua era ciò che io amavo in lei. L'amavo tanto, l'amavo con tanta felicità». E ad un tratto si ricordò com'era finito il suo amore. Lui non aveva nessun bisogno di tutto questo. Di tutto questo lui non vedeva, non capiva nulla. Vedeva in lei una bella ragazza fresca, alla quale non si sarebbe degnato di unire la sua sorte. «E io?» «Eppure lui è vivo e sta allegro ancora oggi. E il principe Andrei, come se qualcuno l'avesse scottato, scattò su e si mise di nuovo a passeggiare davanti alla rimessa. Il 25 agosto, alla vigilia della battaglia di Borodino, l'imperatore Napoleone non era ancora uscito dalla sua camera dal letto e finiva di alzarsi. Soffiando e sbuffando, egli presentava ora la schiena carnosa, ora il grosso petto peloso alla spazzola con la quale un cameriere gli fregava il corpo. Un altro cameriere, tenendo con un dito la boccetta di vetro, spruzzava d'acqua di colonia il corpo ben curato dell'imperatore. I capelli corti di Napoleone erano umidi e arruffati sulla fronte, ma il suo viso, benché gonfio e giallo, esprimeva la soddisfazione fisica. I due camerieri vestirono rapidamente Sua Maestà ed egli, nell'uniforme turchina della guardia, con passo rapido e fermo, uscì nell'anticamera. Il prefetto di palazzo dell'imperatore gli si inchinò profondamente con quella riverenza di corte dei francesi che sapevano fare soltanto i vecchi servitori dei Borboni e si avvicinò, porgendo un plico. Napoleone si rivolse allegramente a lui e gli tirò l'orecchio. «Vi siete affrettato, ne sono molto contento. Ebbene, che dice Parigi?» disse egli, mutando a un tratto la severa espressione di prima nel più affabile sorriso. «Sire, tutta Parigi rimpiange la vostra assenza». Napoleone sorrise e, alzando distrattamente il capo, guardò a destra. Un aiutante di campo si avvicinò come scivolando e porse una tabacchiera d'oro. Napoleone la prese. «Ah, e questo che è?» disse, accorgendosi che tutti i suoi cortigiani guardavano un oggetto coperto da un panno. «Un dono dell'imperatrice a vostra maestà». Era un ritratto del bambino nato da Napoleone e dalla figlia dell'imperatore d'Austria, che tutti, chissà perché, chiamavano il re di Roma, dipinto a vivaci colori da Gérard. Il bambino, assai bello e ricciuto, con uno sguardo che somigliava a quello di Gesù nel quadro della Madonna Sistina, era ritratto mentre giocava al bilbocchet. La palla rappresentava il globo terrestre e il bastoncino che aveva nell'altra mano rappresentava uno scettro. Benché non fosse interamente chiaro ciò che l'artista aveva voluto significare raffigurando il cosiddetto re di Roma che trapassava con un bastoncino il globo terrestre, pure questa allegoria, come già a tutti coloro che avevano visto il quadro a Parigi, anche a Napoleone, parve chiarissima e gli piacque molto. «Roi de Rome!» disse egli mostrando il ritratto con un grazioso gesto della mano. «Admirable!» Con la facoltà propria agli italiani di cambiare a volontà l'espressione del viso, egli si avvicinò al ritratto e prese l'aspetto di una pensosa tenerezza. Egli sentiva che tutto ciò che in quell'ora diceva o faceva era storia. E gli pareva che il meglio che potesse fare in quel momento, con tutta la sua grandezza, fosse dimostrare la sua semplice tenerezza paterna in contrasto con quella grandezza che permetteva a suo figlio di giocare al bilboquet col globo terrestre. I suoi occhi si annebbiarono. Egli si accostò, guardò una sedia, la sedia gli scivolò subito sotto e sedette di faccia al dipinto. Un solo gesto di lui e tutti uscirono in punta di piedi, lasciando il grande uomo solo con la sua commozione. Molti storici dicono che la battaglia di Borodino non fu vinta dai francesi perché Napoleone era raffreddato. Che se non fosse stato raffreddato, i suoi ordini prima e nel corso della battaglia sarebbero stati più geniali e la Russia sarebbe stata perduta e la face du monde eût été changée. Per gli storici che ammettono che la Russia si sia formata per la volontà di un solo uomo, Pietro il Grande, e che la Francia da Repubblica si sia trasformata in impero e che le truppe francesi abbiano marciato contro la Russia per la volontà di un solo uomo, Napoleone, la conclusione che la Russia sia rimasta potente perché Napoleone aveva un forte raffreddore il giorno 26, questa conclusione è, per così fatti storici, di una logica stringente. Perciò, quel cameriere che il 24 dimenticò di dare a Napoleone gli stivali impermeabili sarebbe il salvatore della Russia. In quest'ordine di idee tale conclusione non è dubbia, come non è dubbia la conclusione che enunciò Voltaire scherzando, senza sapere egli stesso su che, quando disse che la notte di San Bartolomeo fu cagionata da un disturbo di stomaco di Carlo IX. Ma per le persone che non ammettono che la Russia si sia formata per la volontà di un solo uomo, Pietro I, e che l'impero francese sia stato costituito e la guerra contro la Russia sia cominciata per la volontà di un solo uomo, Napoleone, questo ragionamento non soltanto è falso, irragionevole, ma è contrario a tutta la natura umana. Alla domanda in che consista la cagione degli avvenimenti storici si presenta un'altra risposta, cioè che il corso degli eventi nel mondo è predeterminato dall'alto, dipende dalla coincidenza di tutte le volontà di coloro che partecipano a questi eventi e che l'influenza di Napoleone sul corso di essi è soltanto esteriore e fittizia. I soldati dell'esercito francese andarono a uccidere e a farsi uccidere nella battaglia di Borodino non in seguito all'ordine di Napoleone, ma per impulso proprio. Tutto l'esercito, francesi, italiani, tedeschi, polacchi, affamati, laceri, stanchi delle lunghe marce, in vista di un altro esercito che gli sbarrava la via di Mosca, sentiva che le vene tirées e il folle boire. Se allora Napoleone avesse proibito loro di battersi contro i russi, essi lo avrebbero ucciso e poi sarebbero andati a battersi contro i russi, perché non ne potevano fare a meno. A Napoleone pareva soltanto che tutto avvenisse per sua volontà. E perciò la questione di sapere se Napoleone fosse o non fosse raffreddato non ha maggiore interesse per la storia che la questione del raffreddore dell'ultimo soldato del treno. Tornato dalla visita fatta al principe Andrei a Gorki, Pierre, avendo ordinato al palafreniere di preparare i cavalli e svegliarlo la mattina presto, subito si addormentò dietro al tramezzo, in un cantuccio che Baris gli aveva ceduto. Quando la mattina dopo si svegliò, nell'isba non c'era più nessuno. I vetri delle finestrette tremavano. Il palafreniere, ritto accanto a lui, lo scuoteva. «Eccellenza! Eccellenza! Eccellenza! Vogliate ascoltare i colpi di cannone?» disse il palafreniere. «Già, tutti i signori sono usciti. Anche Sua Altezza Serenissima è passata da un pezzo.» Per la strada passò al trotto un aiutante di campo con un cosacco. «È ora, conte! È ora!» gridò l'aiutante. Dopo aver ordinato che gli conducessero dietro il cavallo, Pierre si avviò per la via verso il tumulo, dal quale il giorno innanzi aveva guardato il campo di battaglia. Su quel tumulo c'era una folla di militari, si udiva il parlare in francese degli ufficiali di stato maggiore e si vedeva la testa di Kutuzov, col suo berretto bianco orlato di rosso e la sua nuca canuta, affondata nelle spalle. Kutuzov guardava innanzi a sé col canocchiale per la strada maestra. Dopo essere salito su per gli scalini che davano al tumulo, Pierre gettò uno sguardo davanti a sé e fu stupito di ammirazione davanti alla bellezza dello spettacolo. Era lo stesso panorama che aveva ammirato il giorno innanzi, ma ora tutto quello spazio era coperto dalle truppe e dal fumo degli spari, e i raggi obliqui di un sole luminoso che si alzava dietro a Pierre alla sua sinistra vi gettavano nell'aria pura della mattina una luce penetrante, screziata di tinte dorate e rosee e delle lunghe ombre scure. Le lontane foreste, che limitavano il panorama, come intagliate in una pietra preziosa d'un giallo verdognolo, apparivano all'orizzonte col loro contorno frastagliato, e in mezzo ad esse, dietro a Valujevo, si apriva la strada maestra di Smolensk, tutta coperta di truppe. Più vicino scintillavano campi dorati e boscaglie. Sulla Kolocià, a Borodino e ai due lati del villaggio, c'era quella nebbia che dilegua, si sparpaglia e brilla all'apparire di un fulgido sole, dando colori e contorni magici a tutto ciò che lascia intravedere. A quella nebbia si univa il fumo degli spari, e in mezzo a quella nebbia e a quel fumo brillavano dappertutto sprazzi di luce mattutina, ora sull'acqua, ora sulla rugiada, ora sulle baionette delle truppe che si affollavano sulle sponde del fiume e a Borodino. Pierre avrebbe voluto essere là, dove c'erano quelle colonne di fumo, quelle baionette che luccicavano, quel movimento, quel rumore. Si avvicinò al suo palafreniere che teneva i cavalli. Dopo aver domandato quale fosse il più tranquillo, montò in sella, si afferrò alla criniera e, mettendo le gambe in fuori, strinse i tacchi contro la pancia del cavallo. Poi, sentendo che gli occhiali gli cadevano e che non aveva il coraggio di lasciare la criniera e le redini, si mise a galoppare dietro al generale, destando il riso di quelli dello stato maggiore che lo guardavano dal tumulo. Innanzi a lui c'era un ponte. e presso al ponte stavano altri soldati che sparavano. Pierre si avvicinò a loro. Senza saperlo, era giunto al ponte sulla Colocià, che si trovava fra Gorki e Borodino e che era stato attaccato dai francesi nella prima azione della battaglia, dopo aver occupato Borodino. Malgrado la fucileria incessante che seguitava in quel punto, egli non pensava affatto che proprio lì fosse il campo di battaglia. Non udiva il rumore delle palle che fischiavano da tutte le parti, delle granate che gli volavano sopra. Non vedeva il nemico che stava dall'altra parte del fiume e per un pezzo non vide i morti e i feriti, benché molti cadessero non lontano da lui. Con un sorriso che non abbandonava il suo volto, egli si guardava intorno. Inaspettatamente si imbatté in una conoscenza, l'aiutante del generale Rajewski. Sentendosi un intruso e uno sfaccendato, temendo di dare noia di nuovo a qualcuno, galoppò dietro all'aiutante. «Dove siamo qui? Posso venire con voi?» domandò. «Ora», rispose l'aiutante, e avvicinatosi al galoppo a un grosso colonnello che stava su un prato, gli trasmise qualcosa, e allora soltanto si rivolse a Pierre. «Come mai siete capitato qui, conte?» gli disse con un sorriso. «Andate sempre curiosando?» «Già», disse Pierre. Procedendo verso il fumo, attraverso il sesto corpo d'armata, dietro all'artiglieria che, portata innanzi, tirava in modo assordante, e si giunsero a un piccolo bosco. Nel bosco c'era frescura, silenzio e odore d'autunno. Pierre e l'aiutante smontarono dal cavallo e a piedi salirono sul tumulo. L'apparizione della figura poco marziale di Pierre, col suo cappello bianco, da principio fece agli uomini un'impressione sgradevole. Ma quando tutti si furono persuasi che quell'uomo col cappello bianco non soltanto non faceva nulla di male, ma o se ne stava seduto pacificamente sul margine del bastione o con un timido sorriso, facendosi cortesemente da parte davanti ai soldati, andava su e giù per la batteria, tranquillo sotto al fuoco come su di un viale, allora a poco quel senso di stupore ostile verso di lui cominciò a mutarsi in una simpatia affettuosa e scherzevole, simile a quella che i soldati hanno per i loro animali, cani, galli, capretti e in generale per tutte le bestiole che vivono presso i reparti militari. Quei soldati accolsero subito idealmente Pierre nella loro famiglia, se ne appropriarono e gli diedero un soprannome. Fra di loro lo chiamavano il nostro signore e ne ridevano amichevolmente fra loro. Una palla aveva fatto un buco in terra a due passi da Pierre. Egli, ripulendosi il vestito dalla terra di cui l'aveva coperto la palla, si guardò intorno con un sorriso. «Ma davvero, come mai non avete paura, signore?» fece, rivolto a Pierre, un grosso soldato dalla faccia rossa, mostrando i suoi forti denti bianchi. «E tu, hai forse paura?» domandò Pierre. «E come no?» rispose il soldato. «Non ci risparmia mica lei. Se ci coglie, ci cava le budella. Non si può non aver paura», disse egli, ridendo. E all'improvviso Pierre viene scaraventato per terra dall'urto provocato da una palla di cannone che è caduta nelle vicinanze. E qui noi lo lasciamo, seduto per terra, circondato dal fischiare delle palle e dalle fiamme, accanto a un cavallo ferito che manda grida prolungate e penetranti. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni. A cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.